Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, partiremo in apertura mettendo assieme due notizie che hanno già trattato i nostri GR, ci mancherebbe, approfondendole. Però da un lato il rapporto della Confcommercio sui risparmi degli italiani, già nelle settimane scorse ragionando con vari ospiti su questa ipotesi che sta passando a Bruxelles, anche se non nella versione che voleva l'Italia, ossia che vengano considerati oltre che i debiti pubblici anche i risparmi privati nell'analizzare lo stato di salute di un paese nell'area euro. Alcuni ospiti, dicevo, facevano notare come è vero che gli italiani hanno dei grossi risparmi e li stanno però erodendo. Oggi il dato diffuso dalla Confcommercio, ripeto, è abbastanza univoco su questo: sono stati bruciati miliardi di risparmi dal 90 in poi, meno 60% il risparmio delle famiglie negli ultimi 21 anni scarsi. Praticamente, se nel 1990 per ogni 100 euro di reddito se ne risparmiavano 23, per cui per ogni 1000 euro di reddito se ne risparmiavano 230, adesso non si arriva a 10, ossia per 1000 euro di reddito non si arriva a 100. Nello stesso periodo, prosegue la nota della Confcommercio, il risparmio reale con un reddito a livello reale stagnante, cioè al netto dell'inflazione stagnante, si è ridotto del 60%. E questa non è una bella notizia. Tra l'altro, resta il mattone come forma di investimento principale, e aggiungo la media del risparmio in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, era di 4.000 euro pro capite nel 1990, è scesa a 1.700 euro pro capite nel 2010. So e vedo già dei messaggi al 349-238-6666 che molti di voi dicono cosa vi aspettate, del resto i risparmi servono per mantenere un potere d'acquisto dopo la crisi, è eroso anche dall'euro per il lavoro dipendente e anche per mantenere i figli, scrivono alcuni, visti gli stipendi bassi, molto bassi, di ingresso nel lavoro, ma soprattutto stipendi bassi che restano anche dopo che uno l'ingresso nel lavoro l'ha fatto. Parleremo poi del toyotismo, ossia delle piccole e medie imprese italiane, per essere più precisi, perché in un ciclo di convegni uno dei padri di quello che è il meccanismo, che è stato un meccanismo rivoluzionario negli anni 90 sulla organizzazione aziendale, un meccanismo in sostanza alternativo alla catena di montaggio di Henry Ford, ebbene ha fatto un insieme di interventi in Italia per spiegare come e quanto il toyotismo possa in sostanza aiutare anche le piccole e medie imprese a risparmiare in termini di efficienza. Lui si chiama Toshiro Wakamatsu, è vicepresidente della Kalman, gruppo mondiale di consulenza aziendale. Ancora, i mercati finanziari sono leggermente positivi a Milano, più 0,10%, e a Parigi, più 0,20%, ma anche Londra fa uno 0,20%, mentre Francoforte perde lo 0,1%, come sentite. Mercati obiettivamente poco mossi, questa mattina Tokyo aveva avuto un calo dello 0,60%, ma chiaramente lo tsunami, il terremoto e l'impatto anche della crisi nucleare pesano, ma pesano, devo dire, da un po' di sedute in maniera abbastanza accettabile, perlomeno da un punto di vista borsistico. Non accettabile la situazione invece da un punto di vista ambientale e della sicurezza. L'euro sul dollaro a quota 1,41,12, ancora oggi tensioni sui rendimenti delle obbligazioni portoghesi, continuano a toccare nuovi record delle obbligazioni a 10 anni, ne parleremo nelle notizie in breve. Per quello che riguarda il mercato, segnalo che Enel Green Power, c'è una notizia che riguarda proprio la società, di un accordo, ne parleremo a mercati chiusi, più 3,32%, è il miglior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Azimut più 2,4%, come Diasorin, o di Assorin, Todds più 1,35%, Monte dei Paschi più 1%, come Atlanti allo 0,80% lo guadagna Finmeccanica. Chi perde? Il Banco Popolare perde il 5% e Fondiere Assai l'1,60%, Telecom 1,5%, Ubibanca cede l'1,3% come la Popolare di Milano, meno 1,1% e Fiat e anche Parmalat, Autogrill meno 0,70%. Ultima cifra, poi partiamo con la notizia in breve con i nostri temi, 349-238-6666 per i vostri sms. Petrolio in aumento a New York a $104, in calo invece l'oro, però siamo sempre vicinissimi al record storico, $1,424 l'oncia. I ribelli libici, lo avete letto sui giornali, si dicono pronti a esportare petrolio in meno di una settimana, dai 100.000 ai 130.000 barili al giorno. Questo dopo l'annuncio di aver conquistato i terminali petroliferi, anche questo però lo trovate sui giornali, i terminali petroliferi, dicevo, a sud di Bengasi. L'economia europea, dopo il vertice, dopo il Consiglio europeo, ultimi ritocchi da quello che si capisce della Banca Centrale Europea per il nuovo meccanismo che per fornire liquidità alle banche in difficoltà, fornendo però anche un'ancora di salvezza immediata all'Irlanda. L'Irlanda infatti non è che abbia chiuso i suoi problemi con l'aiuto del fondo europeo. Come anticipavo, i rendimenti sui titoli di Stato portoghesi, e quindi più alti sono i rendimenti più a rischio un paese, sono schizzati al 7,89%, che è il massimo da quando esiste la serie, no, già dal 1997. Il premio, praticamente la differenza tra quanto rende un BTP decennale in Portogallo e un BTP, gli richiamo BTP anche se il termine è quello italiano, però insomma l'equivalente tedesco, è del 4,5%. E non a caso l'agenzia di rating Standard & Poor's, una delle tre che danno i voti ai debiti dei paesi, ha annunciato che probabilmente, quindi quasi sicuramente, si arriverà a un nuovo taglio del voto al Portogallo in settimana. Tra l'altro, oggi anche l'Italia, o meglio il Ministero dell'Economia, ha collocato 8 miliardi di euro di BOT a 6 mesi per rifinanziare il nostro debito. L'asta è andata bene, nel senso che la domanda su 8 miliardi era di quasi 13 miliardi, non una domanda fortissima, però quasi doppia, non doppia, quasi doppia. Il rendimento è leggermente salito, è all'1,39% rispetto all'asta del precedente, che era l'1,30%, siamo ai massimi da dicembre, però obiettivamente dire che c'è una tensione sui nostri titoli di Stato sarebbe eccessivo. Vedo che molti di voi chiedono sul Banco Popolare, ne parleremo a mercati chiusi, come sempre facciamo, meno 5% il Banco Popolare, in questo momento perde il 5,04%, nulla da... ci sono i conti diffusi venerdì a borsa chiusa, e il mercato, da quello che abbiamo visto, reagisce ai conti diffusi, dopodiché insomma, lo analizzeremo, un po' di pazienza, tra mezz'ora massimo, parleremo anche del Banco Popolare. Continuiamo con le notizie invece italiane, perché parlavamo del debito pubblico italiano. Beh, io vorrei farvi ascoltare un paio di passaggi di quanto ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che come commentavamo anche la settimana scorsa è un periodo che è molto silenzioso, molto riservato nei commenti, era ospite al programma sulle 3 e mezz'ora di Lucia Annunziata. Beh, due gli interventi che abbiamo estrapolato dall'intervista a Giulio Tremonti. Il primo riguarda il G20, e anche se il ministro vedesse o meno un collegamento tra la finanza europea e la Libia, e poi il secondo invece sulle norme anti-OPA e quindi le norme salva Parmalat di cui abbiamo parlato tutta la settimana scorsa. Sentiamo però perché Tremonti ritiene che il G20 non basti più. Francamente non vedo un collegamento tra la Libia e quello che la finanza in Europa. E tra l'altro, guardi, io torno a dire, la Libia è davanti a noi, è molto importante, però quello che è ancora più importante è la catena delle rivolte che va dall'Atlantico fino all'Asia, che sta cambiando la geografia del mondo. Sono popoli enormi che tornano in marcia. Le faccio una considerazione. Sì. Due o tre anni fa viene fuori il G20, che supera il vecchio G7, e si dice il G20 è la struttura che governerà il mondo. In due anni è invecchiata anche lei, perché nel G20 non c'è dentro l'Africa, solo il Sudafrica, non c'è dentro il mondo arabo, solo l'Arabia Saudita. La struttura del G20 è cambiata, deve cambiare, perché non rappresenta più il mondo. Se pensi che un qualche tipo di coordinamento del mondo, di discussione vada fatto, non basta più il G20, che è invecchiato in due anni. E poi le norme anti-scalata, anti-Parmalat, come sono state chiamate. Tra l'altro il Consiglio di amministrazione di Parmalat è convocato per venerdì prossimo. Ma è convocato per esaminare la possibilità di far slittare, come prevede la norma approvata dal governo, per far slittare il consiglio di amministrazione al prossimo fine giugno. E ancora l'Europa sulle norme europee ha detto: l'importante, ha detto Michel Barnier, che è il commissario europeo al mercato interno, l'importante non so ancora quello che il governo italiano voglia fare, l'importante è che le regole europee sul mercato interno vengano rispettate. Ha detto: proteggere l'identità e la sovranità nazionale su un certo numero di settori strategici non vuol dire per forza protezionismo, ma investimenti, innovazione, politiche industriali. E poi ha detto: il patriottismo economico, l'unico in sostanza che possiamo accettare, è quello europeo, cioè il patriottismo europeo. E allora sentiamo anche Tremonti sulle norme anti-OPA o salva Parmalat. L'Europa presuppone il mercato, ma anche la reciprocità. E noi abbiamo l'impressione che in molti casi ci sia uno Stato come l'Italia, un paese che crede nel mercato e l'altro che crede nei monopoli. Noi abbiamo casi in cui l'Italia, che aveva un'azienda pubblica enorme, l'ha divisa, l'ha spacchettata, ha fatto lo spezzatino. E a chi ha dato un pezzo dello spezzatino? Al monopolio pubblico di un altro paese. E questo a me non sembra giusto. Noi abbiamo l'intenzione di presentare in Europa, tradotta in italiano, la legge francese. La legge francese, se va bene per l'Europa in Francia, deve valere anche in Italia. Poi ci sono leggi diverse da quella italiana in Germania. Cosa vuole che le dica? Si può anche fare lo shopping di legislazione. Io non vedo perché una legge che va bene a difendere i lavoratori di un paese non deve andare bene a difendere anche i lavoratori del mio paese. Così il ministro Tremonti. Ancora due notizie, poi di Marchionne invece della Fiat parleremo durante i mercati finanziari. Le due notizie riguardano le generali. Allora, il Consiglio di amministrazione generali è in via di convocazione nella settimana che parte dall'11 aprile. Non ha prestato, sottolinea un comunicato della società, direttamente o tramite società del gruppo, alcuna garanzia a favore di Petr Kellner o del gruppo PPF a fronte di affidamenti o anticipazioni. È tutta la vicenda che adesso non possiamo spiegare, che riguarda lo scontro in corso Bolloré, Tarak Ben Ammar che cerca di mediare, Geronzi dall'altra parte, Della Valle che va aperto i giochi, ma non sulla vicenda Kellner in realtà. E poi gli impegni necessari, proseguono sempre le generali, gli impegni finanziari necessari all'uscita dall'alleanza con il gruppo ceco PPF non sono stati registrati da generali come debiti, in quanto non rappresentano un obbligo incondizionato da parte della compagnia di acquistare la partecipazione. Dopo parliamo di Fiat e anche di Exor, che ha diffuso oggi i dati, di Fiat soprattutto su cosa vuole fare Marchionne, che non sta sciogliendo l'enigma, enigma per modo di dire. Insomma, se la testa, come hanno anticipato alcune agenzie Reuters su tutta la settimana scorsa, andrà negli Stati Uniti, ha detto il cuore in Italia, la testa in più parti, va bene, poi ne parliamo. Adesso però vorrei mettere assieme, lo so che alcuni di voi diranno, ma come fai? i risparmi degli italiani con il reddito dei politici italiani. Eh sì, perché era troppo carina per non unirle. Allora, il reddito dei politici in questo caso nulla a che fare, l'ho preciso, con i costi della politica, di cui molto ci siamo occupati in queste settimane in questi anni. Abbiamo già avuto modo di manifestare così la perplessità su una norma che era stata eliminata dal mille proroghe, che è rientrata invece con gli ultimi provvedimenti, quella che porta da 48 a 60 i consiglieri per le città sopra un milione di abitanti, da 12 a 15 gli assessori, perché immaginiamo, contrariamente alle dichiarazioni che abbiamo visto anche dal Comune di Roma, che non sia a costo zero. Anzi, il Comune di Roma ha detto no, ma non costeranno nulla in più perché verranno pagati con altri risparmi. Ho capito, ma sono sempre risparmi che non vanno a ripianare il debito del Comune, che non vengono utilizzati per altri investimenti, ma per pagare assessori e consiglieri. Abbiate pazienza. No, vorrei leggere la classifica di quanto hanno dichiarato, quindi riguarda le attività non solo del lavoro parlamentare, ci mancherebbe, i nostri politici. Allora, il più ricco chiaramente è il Presidente del Consiglio Berlusconi. Il reddito dichiarato nel 2010 relativo al 2009 di 40.897.000 euro è cresciuto di tanto, è cresciuto da 23 milioni nel 2009, quindi prodotto nel 2008, a 40.800.000 nel 2010, e quindi prodotto nel 2009, e sono appunto 17 milioni di euro in più. Il premio risulta separato, non risultano nuovi acquisti di auto, barche o di partecipazione a società. Ha venduto il 50% di una comproprietà, a un appartamento a Milano. Al di là di Berlusconi, che avendo appunto un impero era immaginabile che risultasse primo, spiccano poi i redditi di Gianfranco Fini e Francesco Rutelli. Il Presidente della Camera ha infatti un imponibile di 186.000 euro, e poi segue Francesco Rutelli, ha guadagnato 182.000 euro. Il più povero risulta il leader dell'UDC Ferdinando Casini, che ha dichiarato 106.000 euro, e Bersani, così diamo tutta la composizione anche dei vari partiti, nel 2009 ha dichiarato reddito per 137.000 euro. E questo è un fronte. L'altro fronte è invece il risparmio delle famiglie italiane, che da quello che ci dice la Confcommercio è letteralmente crollato dal 1990 al 2010. Dottor Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera. Allora, com'è che avete fatto a calcolare? Poi veniamo ai dati, ma insomma, come avete calcolato il risparmio? Cioè, avete preso i dati del 90, ma poi li avete verificati in termini reali, cioè al netto dell'inflazione? Certo, sono tutti dati Istat, peraltro pubblici, ma anche al netto dell'inflazione. Noi possiamo dire subito che questi dati aggregati ci dicono che nel 1990 tutte le famiglie consumatrici in Italia, tutte le famiglie, risparmiavano 120 miliardi tutte insieme. Nel 2009 ne risparmiavano 110, nel 2010, secondo nostre stime, ma abbastanza vicine diciamo a quello che può essere la realtà, ne risparmiano 100 miliardi. Quindi, considerando anche l'inflazione che c'è stata, il risparmio si è ridotto. Se poi giustamente andiamo a dire quanto è il potere d'acquisto di questo risparmio per italiano, per ciascun italiano, vediamo che ciascun italiano ai prezzi del 2010 nel 90 risparmiava 4.000 euro, nel 2010 risparmia 1.700 euro, quindi effettivamente c'è una riduzione del tasso di risparmio molto molto elevata, e in qualche misura anche preoccupante, perché se non si risparmia non si copre il futuro. Allora, voi avete preso il risparmio complessivo dato Istat del 90, che era 120 miliardi di euro, cioè di euro equivalenti, erano lire al tempo, però insomma, poi avete controllato quello che era l'ultimo dato disponibile del 2009, che erano 110 miliardi di euro, e avete stimato in maniera abbastanza, voglio dire, ragionevole, che è sceso nel 2010 a 100 miliardi, in effetti con la crisi del 2009 c'è da aspettarselo. Detto, questi però sono valori nominali, cioè al netto dell'inflazione. Poi va sommato questo l'inflazione degli ultimi 20 anni. Esatto. Ed è così che si arriva in termini reali, se ho ben capito, a certo. una media diviso per gli italiani di 4.000 certo. euro equivalenti nel 1990 e di 1.700 euro di adesso nel 2010, cioè a valori correnti di adesso? A parità di potere d'acquisto. A parità di potere d'acquisto, esatto. Ok. Siete riusciti anche a vedere dove il risparmio si è più eroso? Non abbiamo fatto un'analisi di distribuzione di questo risparmio, ma è chiaro che poi le famiglie con minore capacità di reddito hanno sostanzialmente un risparmio pari a zero, certo. se non negativo, come l'incremento dei debiti privati testimonia. Nel complesso il dato che fa più impressione è che il nostro paese, visto diciamo come una famiglia tutta insieme, risparmiava 22 euro su 100 euro nel 1990 e ne risparmia meno di 10 su 100 euro di reddito disponibile nel 2010. E questo è accaduto perché, non tanto per l'invecchiamento della popolazione, cioè per il fatto che essendo più vecchi abbiamo meno bisogno di risparmio, ma per il fatto che il reddito disponibile non è cresciuto sostanzialmente, anzi si è ridotto. Ecco, questa prolungata stagnazione, che è poi il riflesso della malattia italiana da bassa crescita, ha implicato che gli italiani, per difendere quel po' di consumi che potevano fare, che dovevano difendere, hanno dovuto intaccare i risparmi. E questo come si unisce al dato che voi avete diffuso invece settimana scorsa sul calo delle vendite al dettaglio, anche se quello è un dato in qualche modo congiunturale? In questo modo che i consumi sono scesi negli ultimi 4 anni e mi pare che il 2011 non parta in modo positivo. I consumi sono scesi, molto di più sono scesi i risparmi proprio perché il reddito disponibile si è bloccato. E quindi questo in termini prospettici implica due possibilità, entrambe piuttosto negative. O si rialza il tasso di risparmio, perché 1.700 euro l'anno veramente sono molto pochi in termini di risparmio pro capite, o si incrementa il tasso di risparmio, ma se non cresce il reddito disponibile si riducono i consumi, oppure in alternativa questo tasso di risparmio scompare, e in entrambi i casi c'è una terza possibilità, oppure calano i prezzi. Senza andare, che lei rappresenta il mondo del commercio, ci mancherebbe, però voglio dire, senza andare in deflazione, è chiaro che se i prezzi dei generi di largo consumo, quelli che più frequentemente compriamo, non i beni durevoli che comunque non sono aumentati così tanto, restano bassi sotto il tasso di inflazione o comunque di inflazione media, nell'arco di un anno, due anni, tu riesci in qualche modo, a parità di spesa, a risparmiare qualcosa in più, o no? Ok, certo, due dati di fonte Istat e di fonte Eurostat. I prezzi dei beni alimentari sono comunque molto sotto l'inflazione, anche abbigliamento e calzature a gennaio è caduto. E poi attenzione, per difendere i consumatori non dobbiamo distruggere i lavoratori, cioè in fondo uno potrebbe anche dire beh, le aziende li possono regalare i beni e i servizi che producono, però poi i lavoratori che lavorano in quelle aziende, cioè tutti gli italiani in buona sostanza, tranne i politici e la pubblica amministrazione, non devono prendere lo stipendio. Sì, no, ho capito, cioè, ci può essere anche una, lei sa benissimo, bella, non voglio riprendere una polemica che ormai è storia, che in questo periodo che voi prendete in considerazione dal 90 al 2010 di mezzo c'è anche un dettaglio, che è l'introduzione dell'euro, che ha avuto un effetto sui generi maggior consumo di penalizzare il potere d'acquisto. Allora c'è anche chi, per mantenere lo stesso potere d'acquisto, ha toccato i risparmi. Detto questo, siamo d'accordo, non voglio essere in questo caso stupidamente populista, è chiaro che un paese bravo, sì, grazie, perché non so se sono stupidamente o sul populista, però è chiaro che un paese poi deve tornare a crescere in maniera sana, e cioè i prezzi, per carità, senza furbi e furbetti, ma devono aumentare aumentare il potere d'acquisto e quindi esserci meno costi indotti, certo. e anche le remunerazioni, perché guardi, un tema che lei non ha toccato riguarda quanto il risparmio viene eroso da tutti quei giovani che ormai sono abituati ad avere salari di ingresso che poi si mantengono per 3, 4, 5 anni, altro che ingresso, tra gli 800 e i 1200 euro, perché poi lì pagano le famiglie in qualche modo, non è che ci nascondiamo dietro certo. un dito. Ultima domanda, sul fronte di cosa fanno gli italiani con quel poco, insomma, che risparmiano. Voi avete notato mutamenti decisi e degni di nota tra il 90 e il 2010? Beh, ci sono stati tanti mutamenti, concentriamoci sugli ultimi anni, si è andati negli ultimi cinque anni polarizzandosi verso due impieghi dei risparmi, la casa, il mattone e la liquidità. Ora, ci sono aspetti positivi e negativi, anche in termini tecnici, di questo tipo di allocazione. Per esempio, la liquidità in banca rende meno del tasso di inflazione e quindi il potere d'acquisto di questo risparmio, che è di tipo cautelativo, precauzionale, cioè in risposta a una paura del futuro, sostanzialmente riduce il potere d'acquisto dello stesso stock di ricchezza detenuta in forma liquida, e questo potrebbe addirittura peggiorare la situazione, le possibilità di difesa delle famiglie italiane nel prossimo futuro. Sì, vedremo poi cosa. Vedo molti messaggi che dicono che è cambiata anche la spesa. Sì, è vero che è cambiata anche la spesa, che alcuni generi sono considerati meno prioritari rispetto ad altri. È vero che il mattone, sto cercando di rispondere bella anche ai messaggi che arrivano, il mattone si conferma il bene rifugio, però ripeto, o qua torniamo anche a produrre, aumentare la ricchezza nazionale, certo. Sennò non, certo. pur diciamo mantenendo anche una moderazione dei prezzi. Ci chiedono quanto costa una birra media e una pizza? Bella. Così la preparo. Allora, quando uno parla di un prodotto che ha un ampio valore aggiunto in termini di capitale umano investito, perché la pizza non è che si forma da sola, tantissime fiesta sotto casa mia con 6 euro io sto a trasferire. No, dai, bella, con 6 euro, mi dica dove abita che ci trasferiamo tutti quanti lì. Non vi potete trasferire tutti perché purtroppo c'è pochissima offerta di immobili. Però mi sembra di tanta di pizza, pochi immobili ma tanta pizza, perché a 6 euro che mangia con 6 euro? La pizza e la birra con 6 euro? No, dai. E basta. Sì, tranquillamente. Una pizza e una birra con 6 euro. È chiaro che poi se uno chiede, come dire, questi sono prodotti compositi. No, se ho tu capito. Vuoi mangiare la pizza al mercato di Traiano, è chiaro che paghi anche il contesto. Bella, adesso lei sa che questa è la tipica domanda che si fa ai politici in campagna elettorale, no? Quanto costa il latte in America, sì, soprattutto? Sì. Io non voglio candidarla a nulla, era solo detto no, poi se lei vuole, ma detto ciò, 6 euro una pizza e una birra, guardi, non è pensare. 6 euro una pizza, posso capire, una pizza e una birra assieme. Da una parte, se la sente sua moglie, costerà 8 euro. No, da una guardi, parte costerà purtroppo, 9, purtroppo, ma non molto di più, assolutamente. No, ma sono valori aggiunti compositi, e anche composita la nostra sfiga, però, se mi permette, perché qua sotto i 12-13 euro a Milano, ma non solo, una pizza e una birra manco le vede. Comunque no, Milano ha un livello medio più alto, i prezzi sì. Complessivamente più alto, come ha un livello medio. Comunque di ci dica dov'è che compra la pizza a 6 euro con una birra, lo vogliono sapere tutti i romani che ascoltano. Faccia sotto, pubblicità. Ma i romani lo sanno benissimo, tant'è che i posti che gli indico io faccia pubblicità. No, non faccio pubblicità perché poi magari trascuro qualcuno, ma i romani lo sanno benissimo dove si compra la pizza a questi prezzi. Va bene, bella, meglio che stiamo sui dati aggregati, vera, perché io non ci credo che la paga 6 euro. Comunque grazie al direttore e responsabile dell'ufficio studio di Confcommercio, Mariano Bella. Arrivederci. Adesso vi prego di non inondare il terminale di SMS su quanto costa la pizza in tutta Italia, perché so cosa succede. 349-238-6666 per i vostri SMS. Andiamo sul metro, la pubblicità, poi la borsa più 0,11 con il caso della giornata che il Banco Popolare dopo i conti di venerdì sera meno 5,30%, poi il toyotismo, c'è chi mi invita a Lecce per un mese a mangiare la pizza e la birra a 7 euro, che per un mese non so cosa succede al mio fegato, però al portafoglio sì, al fegato non lo so. No, rido perché dopo che il direttore del centro studio di Confcommercio Mariano Bella ha detto che lui sotto casa a Roma la paga 6 euro, però devo dire che c'è anche qualcuno che dice a Livorno ieri sera una margherita 3 euro e mezzo, una birra 1 euro e 20, complimenti, 4,70 euro, c'è chi, no, ridevo perché c'è chi dice a Brescia con 6 euro ti fanno vedere la lista delle pizze, e purtroppo molti che citano anche in città più piccole, Pordenone 7 euro con asporto. Vabbè, non possiamo fare solo la puntata sulla pizza, sennò è la puntata diventa una pizza. Facciamo la borsa. Borsa leggermente, ma proprio una cosa risibile, positiva a Milano, più 0,11, è un prefisso, così come un prefisso a Parigi, più 0,12, Londra più 0,11, mamma mia, sembrano fatte quella fotocopia oggi, Francoforte meno 0,11, l'America più 0,11, io quasi quasi me li giocherei questi indici di borsa oggi, perché tutto 0,11 o meno o più. Non so su quale ruota. Banco Popolare meno 5,30%, Fondiaria meno 1,90 come UbiBanca, Telecom Italia meno 1,60, Popolare di Milano meno 1,20, Parmalat meno 1%, Fiat meno 0,80 come Autogrill e Buzzi Unicem, bene invece Enel Green Power più 4% quasi, Azimut più 2,60, Diasorin più 2,40, Tods più 1,40, Finmeccanica più 0,90 come il Monte dei Paschi, Luxotti che guadagnano 0,80 come Atlantia. Miglior titolo in assoluto Eurotech più 20%, poi la Lazio più 16%, IKF più 8,20%, peggior titolo in assoluto Cell Therapeutics meno 8,90%, Centrale del Latte Torino meno 8,60%, Milano Assicurazione meno 6%, Tiscali meno 5,70%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Banco Popolare, i conti di venerdì, e sul fronte opposto invece l'accordo e l'annuncio di oggi di Enel Green Power, lì è il Costa Rica che pesa. Esatto, infatti il Banco Popolare è andato giù, come hai detto tu, sulla delusione dei conti, che comunque sono risultati con un utile netto di 308 milioni, anche se non direttamente paragonabile rispetto al 2009 a causa di voci straordinarie, comunque in crescita di oltre il 26%. Gli analisti però sono rimasti delusi anche dell'annuncio della cedola di 0,03 euro e quindi hanno penalizzato il Banco Popolare, che ricordiamo però nelle ultime sedute aveva registrato dei rialzi. Per quanto riguarda invece Enel Green Power, oltre al fatto che ovviamente in questo momento in cui c'è la crisi sul nucleare vanno bene tutti i titoli delle società legate all'energia pulita o alle energie alternative, Enel Green Power quest'oggi beneficia dell'annuncio che sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo impianto idroelettrico in Costa Rica, e quindi un impianto che entrerà in a regime nel 2013, e quindi questo ha premiato le azioni con un balzo del 3,9%. Sì, in assenza poi di grossi altri spunti, ma va bene così per Enel Green Power. Azimut, ma anche Parma, la Telora Tolz più 1,40, sono poco mossi, Finmeccanica più 0,90. Anzi, facciamo una cosa, Eleonora, Eurotech, perché tanto che non ne parliamo, però insomma è un piccolo gioiellino Eurotech nel suo settore. Sì, esatto, Eurotech oggi ha registrato la miglior performance, più 20% come hai detto tu, è volata sin dalle prime battute di questa mattina, si festeggia la notizia che la società installerà dei mini computer per la sicurezza nei treni americani, è una tecnologia appunto messa a punto dall'azienda e venduta che è un caso bellissimo, perché Siagri, il fondatore, è stato nostro ospite qualche volta, è un'azienda che è nata con tre amici, quasi modello Silicon Valley, che poi hanno fatto ricorso anche al prestito bancario, poi al private equity, poi si sono quotati in borsa, cioè hanno fatto tutte le tappe da manuale per crescere, con risultati che spesso arrivano. Fiat, su Fiat però, prima di sentire il commento di Leonardo Micheli, sono usciti i dati Exor innanzitutto e poi li commentiamo, però vorrei tornare sulle dichiarazioni di Sergio Marchionne, rilasciate in sostanza a margine del Salone dell'Auto di Ginevra. Ancora resta molta polemica su quello che farà Marchionne una volta completata la fusione Fiat-Chrysler. Ha detto Marchionne che non, al momento non venderà la Ferrari. La cosa, il servizio di Report di ieri, l'avete visto tutti qua, molti di voi, in cui paga le tasse in Svizzera e quindi risparmia 30%, dice come chi vive all'estero, dice insomma io le pago come un lavoratore italiano che vive all'estero. Lì c'è un piccolo dettaglio, perché la legge italiana prevede che se tu passi più di 183 giorni in Italia le tasse le paghi in Italia. Qui adesso non voglio fare i conti in tasca Marchionne, però insomma Detto ciò, sull'opportunità che il numero uno del più grosso gruppo automobilistico italiano, il più grosso imprese italiane, paghi le tasse in Svizzera, vabbè, si può anche ritenere che forse non sia proprio un segnale di attaccamento al paese, mettiamola così. E Marchionne lo abbiamo non difeso perché non ne ha bisogno, ma lo abbiamo, eravamo d'accordo con lui su tante cose a partire da Marchionne, da Mirafiori, questa volta, però sentiamo cosa vuol fare Marchionne della testa della Fiat e del cuore della Fiat. Io ho semplicemente detto per chiarezza che la scelta di dove sarà la serie legale dopo che la Chrysler andrà in borsa, la decisione di prendersi sulla base di governance non è un problema di oggi, lo so che si sta preoccupando del futuro. Noi siamo riusciti a trovare, credo, un modo per abbinare il funzionamento del cuore e della testa. Abbiamo fatto una scelta che non è totalmente economica, finanziaria. Il fatto di investire in questo paese è perché abbiamo deciso, e questo è un discorso che ha ripetuto anche Elkan quando l'ha fatto apertamente, abbiamo deciso di non accettare questa situazione e cercare di modificarla e migliorarla. Molto lì, è tutto lì. La famiglia Agnelli resta in Fiat, che fine fa? Questa è una domanda da fare alla famiglia Agnelli. E ancora Marchionne sui sindacati. Allora, vedo che alcuni di voi dicono, ma insomma, chi ha chiesto i sacrifici anche legittimi ai lavoratori di Pomigliano e soprattutto di Mirafiori dovrebbe dare l'esempio lui per primo. Sì, è un punto di vista, è assolutamente, ha una sua logica, così come abbiamo difeso Marchionne, difeso, ripeto, eravamo d'accordo che se una fabbrica non è produttiva deve modificare l'accordo contrattuale, forse bisognerebbe dare l'esempio dall'alto, lo diciamo a tutti i nostri manager. Marchionne, volete sapere quanto risparmia 500.000 euro, guadagna 4 milioni di euro l'anno, pagando il 30% in Svizzera invece che il 43% in Italia, risparmia 500.000 euro. E altri di voi dicono, ma insomma non è chiaro cosa vuole fare, il cuore, la testa, lo so, infatti non è mai arrivata una smentita da Marchionne, dire no, la testa resterà in Italia e tutta la parte anche di know-how non è arrivata, e questo fa presumere che possa anche non essere così. La testa in più parti vuol dire che ce ne sarà una parte a Detroit e una parte a Torino. Vabbè, Exor, inutile nel 2010, il valore degli attivi cresce a 2,6 miliardi di euro, dividendo a 31 centesimi per azione ordinaria, 36 per azione privilegio, 38 per azione risparmio. È meglio che il Fiat arrivi al 51% di Chrysler prima della quotazione. Eleonora Micheli, i titoli. Sì, i titoli. Fiat ha perso lo 0,84%, Fiat S.P.A. è andata male insieme al settore auto europeo, che oggi ha risentito dell'annuncio di Porsche che farà un aumento di capitale da 5 miliardi, e quindi questo ha tirato in basso un po' tutto il comparto. Poi su Fiat, come hai detto tu, pesano anche le notizie emerse ieri dal report. Fa paura soprattutto la posizione finanziaria, 31 miliardi di debiti è emerso a fronte ovviamente di 15 che vengono definiti di liquidità, però è tutto da vedere e da analizzare. Vorrei solo ricordare che mesi fa Radio Cor stessa aveva riportato ipotesi che circolavano tra le case d'affari, ovvero che fosse allo studio una fusione tra Fiat Group Automobile, ovvero tutta la Fiat che controlla i marchi eccetto la Ferrari, con Chrysler prima della quotazione. Questo consentirà di reperire fondi sul mercato americano in modo tale da rimborsare i 7 miliardi allo Stato americano. Potrebbe essere un'ipotesi allo studio e tra l'altro un'ipotesi che circolava tra le banche d'affari. E questo spiegherebbe anche le recenti dichiarazioni di Marchionne. Sì, sì, giustamente un'ipotesi che voi avete fatto circolare, cioè che era stata pubblicata dall'agenzia di stampa settimane fa. Ancora sui titoli, non posso continuare a parlare di Fiat e sulla filosofia di Marchionne, abbiamo detto anche troppo negli ultimi mesi. Va solo detto che dopo gli accordi a Mirafiori Pomigliano ora tocca a Melfi, Cassino e Bertone, sempre quello che ha detto Sergio Marchionne ieri al report. Non abbiamo detto che Marchionne non paghi le tasse in Italia. Marchionne paga le tasse in Italia con l'aliquota svizzera, i 500.000 euro che risparmia all'anno, su un reddito a 4 milioni sono dovuti all'aliquota svizzera, che è massimo 30%, da noi invece è al 43%. Tutto qui. Detto ciò, altri titoli ancora al di là della vicenda Fiat che vorrei commentare. Parmalat. Parmalat continua a rimanere ovviamente sempre al centro dell'attenzione, aveva tentato anche di rialzare la testa, ma nel finale ha perso l'1%, ha invertito rotta, ha chiuso a 2,35 euro, ovviamente però l'attenzione rimane alta nell'attesa di comprendere quali saranno gli sviluppi. Intanto la notizia del giorno è che nei prossimi giorni è stato convocato un CDA che stabilirà se verrà rinviata all'assemblea. Il 1 aprile appunto il CDA deciderà la data di convocazione dell'assemblea, che per adesso in teoria è fissata al 12 aprile, ma che può slittare fino a giugno in virtù del decreto antiscalate. Edison, dopo quello che abbiamo letto, che i francesi anche a due vorrebbero cambiare il numero uno, Umberto Quadrino, il titolo? Sì, il titolo oggi, anche in questo caso, si può dire che rimane al centro dell'attenzione. D'altra parte ha perso lo 0,77%, attestandosi proprio a 0,77 euro. Grazie, Leonora Micheli. Partiamo dal primo tema, perché in questi giorni è in Italia uno degli eredi più forti del cosiddetto toyotismo. Molti di voi ci hanno scritto: ma cos'è questo toyotismo? Allora, prima raccontiamolo e poi facciamo un'intervista. Toyotismo è un termine, insomma, che spesso viene contrapposto al fordismo, cioè il fordismo è la produzione su larga scala basata sulla catena di montaggio, e il toyotismo invece è stato inventato dalla Toyota, da Toyoda, che non c'entra niente con Toyota, ma insomma l'idea di fare di più con meno. È un'organizzazione del lavoro, un modello, la racconterò in maniera molto molto imprecisa, ma non ho tempo. Praticamente la Toyota nel dopoguerra si trovava in condizioni gravissime per una mancanza di risorse e di materie prime, come gran parte dell'industria giapponese. Il metodo si basa su 5 principi: identificare il valore per il cliente, comprendere il processo di creazione del valore, il flusso del valore e poi il ricercare la perfezione, e lì soprattutto l'applicazione più nota, che è il just in time, quindi non avere magazzino e risparmiare sulla produzione. Siamo in collegamento con Toshiro Wakamatsu, vicepresidente di Kalman, che sta spiegando in giro per l'Italia in questi giorni a centinaia di piccoli imprenditori italiani perché ritiene che il toyotismo possa avere un effetto positivo anche sulle piccole e medie imprese. Buonasera, ci aiuti a capire il perché innanzitutto. Credo, a mio parere, che non ci sia alcuna differenza nella realtà italiana e realtà giapponese, per cui penso che il TPS, il toyotismo, possa essere ben implementato dalle piccole e medie imprese italiane. Da diversi anni, grazie a Consiglio, ho la possibilità di incontrare tanti imprenditori e mi sono accorto che il sistema Toyota potrebbe permettere a queste realtà italiane di ridurre il costo, mettere il cliente al centro della propria produzione e quindi allinearsi alle esigenze del mercato globale. Quindi potrei dire che il TPS, che viene riconosciuto come Toyota Production System, potrebbe essere chiamato con una nuova terminologia, cioè Toyota Profit System. Perché aumenta, se ho ben capito, i profitti? Allora vorrei capire più nel dettaglio, perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori al 349-238-6666, in che cosa consiste concretamente, cerchiamo di spiegarlo a tutti, il Toyota Production System. E poi B, perché voi ritenete e fino a quanto possa migliorare gli utili e quindi i ricavi anche di un'impresa? Allora, まず TPS の説明ですけれども、先ほど申し上げましたように、 Per quanto riguarda la prima domanda, le rispondo che il TPS si può concretizzare in uno slogan, cioè produrre ciò che è necessario al cliente nella quantità necessaria e al momento necessario. Le faccio l'esempio dell'industria dell'abbigliamento italiano, il famoso Made in Italy, il fashion italiano. Non basta avere solo un design meraviglioso, bisogna anche produrlo. E ricollegandomi a quanto dicevo prima, bisogna mantenere una costante attenzione al costo del prodotto per mantenersi allineati alle richieste del mercato. Per quanto riguarda la seconda domanda, le rispondo che possiamo ridurre notevolmente il costo cambiando la tipologia di produzione, passando da una produzione a lotto particolarmente utilizzata nella realtà italiana a una produzione a flusso, in modo tale di lavorare su quel 90% di costi che incidono profondamente sul costo di vendita finale e arrivare a un 50% di riduzione dei costi. Che difetti, sappiamo che il toyotismo appunto è anche, come lei ricordava, la parte produttiva e distributiva, però che difetti vede alla luce di quelli che sono i vantaggi del toyotismo nel nostro sistema di piccole e medie imprese? Noi spesso citiamo le dimensioni, ma qui mi sembra che si parli più che altro di organizzazione aziendale. Stiamo parlando a livello di sistema produttivo, è vero, però non riscontro particolari difetti del sistema di produzione Toyota che potrebbero verificarsi in Italia. Si tratta comunque di produrre, voi conoscete Toyota e il sistema Toyota collegato più che altro all'ambito automobilistico, ma sia l'automobile, sia l'esempio che vi facevo prima dei prodotti tessili e dell'abbigliamento sono pur sempre delle merci, dei prodotti, e quindi possiamo dire che il TPS possa essere tranquillamente adottato in Italia. Toyota の場合 仕入れ先さんについては、その仕入れ先さん、あの Vi consiglio solamente una cosa, dato che la cultura della produzione è già presente nel tessuto produttivo italiano, nelle realtà imprenditoriali italiane, vi consiglio solamente di coltivare in un modo migliore le relazioni con le persone che effettivamente fanno la produzione. Mi spiego meglio, non solo i vostri dipendenti, i dipendenti che sono nelle vostre aziende, ma anche i fornitori. Quindi è importantissima la comunicazione e coltivare queste relazioni con fornitori, aziende e collaboratrici. Un'ultima domanda, più in generale riguarda il Made in Italy. Al di là dell'applicare l'organizzazione aziendale toyotista, diciamo, il toyotismo anche sulle piccole medie imprese, lei ritiene che vi siano spazi, visto che in questi giorni molto si discute in Italia del polo del lusso che non è stato fatto con Bulgari, che è andato in Francia, il polo dell'alimentare che si cerca di fare facendo in modo che Parmalat di nuovo non finisca ai francesi, cioè secondo lei stiamo perdendo pezzi del sistema produttivo, oppure in realtà è normale mercato, per cui se un gruppo ha i soldi e fa una bella offerta è giusto che possa comprare anche pezzi di pregio in un paese? Sinceramente penso che sia un'occasione che l'Italia perde il fatto che Bulgari venga acquisita da aziende francesi oppure che altre realtà americane si approprino di aziende e realtà nate in Italia. Credo che sia importante conservare in Italia la produzione e al tempo stesso mantenere il cuore in Italia. Torniamo su un tema, ma cambiando il taglio. Non voglio tornare a parlare del decreto salva Parma, te l'abbiamo fatto tutta la settimana scorsa, però cercare di capire insomma quali possono essere anche le imprese appetibili per gli stranieri, visto che qua, ripeto, si dice spesso pochi stranieri in Italia, in effetti sono pochissimi, il 4% contro il 12% di imprese a proprietà straniere. E tra l'altro la Francia ha diffuso anche una nota in cui ricordava quante sono le imprese italiane in Francia. 349-238-6666 per i vostri sms. La Francia ha sostanzialmente fatto sapere che l'Italia è il terzo investitore estero di là dall'Alpe. Chiaramente la nota serviva anche a rispondere alle polemiche di questi giorni, con 54 progetti. Praticamente è il primo, la Francia è il primo paese ricettore di investimenti italiani, con una quota del 35% dei nostri progetti. Poi il resto va in Spagna e in Gran Bretagna. Professor Marco Fortis, buonasera. Buonasera. Insegna economia industriale all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, vicepresidente della Fondazione Edison, quindi non le chiederò nulla su Edison, ovviamente. Però mi dica una cosa, lei ha pubblicato su Sole 24 Ore una bellissima inchiesta, anzi analisi, in cui veniva fuori che noi, dopo la Germania, eravamo il paese, era un'inchiesta di inizio 2010, il paese col maggior numero di settori produttivi tra il primo e il terzo posto al mondo, ed eravamo fortissimi, oltre ai soliti, cito anche i materiali prodotti meccanici per l'edilizia e sollevamento, noi esportiamo 13 miliardi di roba ogni anno su questo, la meccanica ad alta contenuto tecnologico 5 miliardi e mezzo, i beni per il divertimento e lo sport 5 miliardi, insomma avevamo in un medagliere tipo olimpico tantissime posizioni tra il primo e il terzo posto. Allora le chiedo intanto se è cambiata la situazione, ma se per il resto lei non teme che parte di questi gioiellini se ne passino in mano straniera. L'aggiornamento di questa ricerca, che è stata presentata l'anno scorso, l'abbiamo appena completata per il 2009, che è stato un anno di grande crisi per tutti i paesi come ben noto, e non ha presentato delle sostanziali modificazioni. L'Italia conserva sempre circa 1000 tra primi, secondi e terzi posti nell'export mondiale su circa 5500 prodotti, che è la massima disaggregazione statistica delle banche dati internazionali delle Nazioni Unite in particolare. Questo tipo di... No, me la ridice questa, professore, mi scusi. Sì, ci sono circa 5500 prodotti su cui si può fare un'analisi statistica disaggregata. A livello mondiale, dagli aceti commestibili ai pomodori pelati, ai recipienti in ghisa, alle macchine per agglomerare, esatto, i vetri di sicurezza, tutta questa roba qui a livello mondiale si struttura in 5500 prodotti. Naturalmente, okay, poi all'interno di questi ci potrebbero essere anche disaggregazioni superiori, ma per avere statistiche per tutti i paesi l'ONU si ferma a questo livello. Vabbè. A questo livello, che comunque è già estremamente dettagliato, su questi 5500 prodotti circa l'Italia ne ha a ben 1000 tra primi, secondi e terzi posti nell'export di questi prodotti. Quindi dopo la Germania e la Cina ci siamo noi? Esattamente, ma questo tipo di dato è molto interessante incrociarlo anche con l'indice di competitività internazionale elaborato dal Centro del Commercio Internazionale dell'UNCTAD e del WTO a Ginevra, che è stato appena anch'esso aggiornato al 2009. Lì ci sono 14 macro settori del commercio internazionale. Pensate che su questi 14 macro settori la Germania ha 9 primi posti e un secondo posto, ma l'Italia ha 3 primi posti e 4 secondi posti, per cui viene subito dopo. dopo la Germania. Ho capito, il problema però, professor Fortis, è che questi gruppi di eccellenza spesso sono piccoli a livello mondiale, sono medi per noi, cioè vanno da 200, 250, 400 addetti, 500, ma insomma, perché sennò non si spiega perché non riusciamo a fare i poli e a tenerci Bulgari, tenerci Parmalat, tranne che col decreto, e altri pezzi d'Italia che se ne vanno all'estero. Ma oppure non è un problema secondo lei? Perché io anche, distinguerei tra quelli che sono i settori strategici su cui in questi giorni c'è ampio dibattito da quelli che sono i settori più a mercato internazionale. Allora certamente Bulgari è un pezzo della storia dell'uso della moda italiana, a parte che comunque aggregandosi ad un polo molto più ampio ha quelle possibilità di sviluppo che forse qui anche per questioni diciamo di passaggio generazionale non potevano più esserci, ma dobbiamo ricordarci che così come la Francia ha acquistato Bulgari, un'azienda francese ha acquistato Bulgari, anche noi in Italia abbiamo fatto grandi acquisizioni, pensiamo a Luxottica, cos'è diventato, ha comprato Ray-Ban, e quindi questi sono diciamo movimenti che sono del tutto logici in settori aperti sui mercati internazionali. Ma allora mi dica una cosa, ma c'è il rischio, tra virgolette, lasciamo stare la legge Sava Parmalat che si applica solo a alcuni settori, di colonizzazione, cioè che i tedeschi, i francesi, i fondi americani, i fondi britannici, anche i cinesi vengano a comprarsi i gioielli della media impresa italiana, ammesso che sia un rischio, oppure no? Ma diciamo che in realtà la media impresa italiana sa anche fare shopping, ci sono aziende anche magari poco conosciute perché operano in settori meno, diciamo, che colpiscono meno l'immaginario collettivo come quelli della meccanica italiana, in cui, che sono andati a fare importanti acquisizioni all'estero. Se prendiamo un gruppo come Interpump, che è un gruppo di medie e grandi dimensioni, è un gruppo che si è espanso in Germania ed è diventato un gruppo leader nel suo segmento di attività. Quindi in realtà l'Italia nel suo segmento delle medie e medio-grandi imprese sta facendo quello che deve fare, cioè cresce nei mercati internazionali, come dicevo i primi, secondi, terzi posti che abbiamo valgono qualche cosa come più di 200 miliardi di dollari, quindi non sono noccioline, sono fatti magari da centinaia di imprese anziché da due o tre grandi conglomerati come capita con la Corea del Sud, un paese le cui esportazioni sono fatte per quasi la metà soltanto, sì, lo so, da tre grandi. Adesso non vorrei però usare la Corea del Sud come benchmark, mi dica solo una cosa. La Corea del Sud è il paese che ha il quarto più alto saldo manifatturiero del mondo, quindi sì. non può essere. Ma, no, per carità, ma è la Corea del Sud. No, io volevo capire una cosa, ma secondo lei c'è il rischio che se comprino queste imprese, perché alcuni dicono ma guardate che sono così piccole e medie che poi grandi gruppi difficilmente verranno a fare shopping sui medi e sui piccoli, lei che ne pensa? Sui piccoli e sui medi non troppo grandi è abbastanza logico che i grandi gruppi mondiali non facciano acquisizioni in Italia, perché una grande multinazionale non ha interesse a comprare un'azienda da 200-250 addetti a meno che non sia cruciale per dei particolari brevetti, tecnologie produttive. In passato anche nel settore del fashion, della moda e di altri beni di consumo ci sono stati dei tentativi di acquisizioni di marchi italiani che si sono rivelati fallimentari per le multinazionali, pensiamo per esempio all'esperienza della Sara Lee che ha cercato di entrare nel distretto di Castelgofredo comprando la Filo d'Oro, ma poi è stata praticamente come un pesce fuor d'acqua in quel distretto e alla fine non ha portato a casa nessun grosso risultato. Cioè in realtà le imprese italiane, la gran parte, sono così piccole che non interessano ai grandi gruppi mondiali. Però mi dica solo sì o no, perché siamo in conclusione del programma. Detto questo, quindi ho capito cosa lei dice, sugli altri settori attenzione che è il mercato, così come ce la giochiamo noi, se la giocano anche gli altri, dopodiché il nostro problema è che spesso non siamo neanche così interessanti per le dimensioni. Ma nei settori individuati dal governo, lei è d'accordo al decreto salva Parmalat, Savopa? Sì o no, su quei settori? Sul discorso della Parmalat direi che sono sostanzialmente d'accordo, per un motivo molto semplice, che la Parmalat ha anche dietro di sé una filiera con il settore agricolo degli allevamenti che è cruciale per un paese come il nostro, anche perché poi la Parmalat a sua volta è un grosso pezzo che, diciamo così, di industria che ha a che fare con la grande distribuzione, dove l'Italia è poco presente e già ampiamente dominata da colossi stranieri. Quindi avere una cerniera di questo tipo è cruciale. Perfetto, ho capito anche questo e quindi immagino che si estenda poi agli altri settori. Grazie, mi interessava perché io lo dico sempre, non ho nessun problema a riconoscerlo. Lei è un ottimista, ma soprattutto è una persona, professor Fortis, che conosce le cifre vere dei nostri ex, del nostro export settore per settore. Grazie Marco Fortis, e da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.